5D. Ascolta e trasforma. Scrivile ora. Non scriverle ora. Telefonale ora. Non telefonarle ora. Rispondile ora. Non risponderle ora. Credigli. Non credergli. Obbediscigli. Non obbedirgli. Sorridigli. Non sorridergli.